Con Damiano Ricci di BIM Distribuzione per parlare del film La casa dei libri di Isabel Coixet in uscita in sala il 27 settembre. Damiano, ben ritrovato. Bentrovati anche voi di nuovo. Raccontalo. Allora, questo è un film particolare, nel senso che è un film spagnolo di una regista spagnola molto conosciuta, molto nota, però è un film ambientato in Inghilterra, quindi ha un'atmosfera veramente proprio inusuale per il cinema spagnolo. Quindi tendenzialmente è un film un po' spiazzante, se possiamo usare questo aggettivo. Racconta la storia di una donna che si chiama Florence Green, che a fine anni 50 nel villaggio di Harborough in Inghilterra, dopo aver perso il marito, diciamo, nella seconda guerra mondiale, va in questo villaggio per aprire una piccola libreria, cioè per ristrutturare, riadattare una vecchia casa e farla diventare la libreria del paese. Questo atto, diciamo così, non ostile ovviamente, però provoca l'ostilità di molta parte degli abitanti di questo villaggio, in particolare di una donna no, nobile e ricca che ostilizza e film la storia della tenacia di questa donna nel cercare invece di difendere quel piccolo angolo di mondo che in qualche modo la faceva stare bene e nel quale trovava la sua felicità. In questo sarà aiutata da un vecchio signore, interpretato da Bill Nighy, che troverà questo suo gesto così bello e che soprattutto legato all'amore per la lettura e per i libri e per alcune opere letterarie che stavano uscendo in quel periodo, pensiamo a Lolita, pensiamo a Fahrenheit 451, troverà questo canale di comunicazione e questa passione comune, questa donna, e l'aiuterà a tenere, diciamo, aperto questo negozio e a combattere questa sua piccola battaglia. Riuscirà, veramente questo è il caso di dirlo, Florence Green a tenere aperta questa libreria e riuscire a combattere questa sua battaglia contro gli abitanti del paese? Ovviamente la risposta è nel film, che consiglio a tutti di vedere perché è un'opera che unisce, diciamo, il buon cinema alla buona letteratura, quindi all'amore veramente per la pagina. È un atto d'amore per la buona letteratura e per la pagina scritta. Il film è tratto da un romanzo di Penelope Fitzgerald, un'autrice molto nota appunto nel mondo anglosassone, che è stato tradotto e venduto in tutto il mondo. Damiano, una fattura classica, solida e poi con un finale che non è così scontato. È infatti esattamente il motivo per cui ho lasciato la domanda aperta. Il finale non è scontato e la storia, anche se sembra che sia diciamo, di impianto molto semplice, in realtà poi non si complicherà, ma è come nelle storie. Io veramente ho visto in questo un po' il cinema che sembra veramente assurdo, però cioè, ho visto alcune cose del cinema di Hitchcock, c'è cioè, un impianto molto solido, un impianto molto semplice, ma che non è mai scontato e che arriva anche a livello di plot a un finale che non ci si aspetta. Quindi veramente un film interessante, un film che ho visto sui social network, molti dal trailer hanno paragonato a Chocolat e c'è anche quel tipo di respiro, c'è anche quel tipo di leggerezza. È un film che diciamo, trasuda una passione tutta femminile per qualcosa di buono, per qualcosa di semplice, per qualcosa di onesto. Ecco. Quindi è un film che riconcilia veramente con le cose semplici. Anche un atto d'amore per la letteratura, e poi non ce lo si aspettava da una regista, da una cineasta come Isabel Coixet. Esattamente, sì, infatti anche questo è un po' sorprendente. Non, ammetto che quando abbiamo visto il film all'inizio siamo rimasti spiazzati, come dicevo all'inizio, per più di un motivo, anche perché una regista appunto del livello di Isabel Coixet si è misurata con una storia che sembra veramente d'altri tempi, molto lontana dalle sue corde, molto lontana dalla sua terra, ma allo stesso tempo devo dire che per quanto si sia posto un obiettivo così, come dire, impegnativo, l'obiettivo è stato raggiunto e siamo contenti anche come BIM di distribuire un film di una regista importante che era un po' di tempo che non trovava distribuzione in Italia. Dico solo a postilla che questo film viene distribuito dalla BIM insieme a un'altra società di Torino chiamata Movies Inspired, quindi adottiamo, diciamo, questa modalità di co-distribuzione. Noi offriamo un service alla società Movies Inspired che ha comprato il film e che lo ha portato in Italia. Aggiungo un'ultima nota di apprezzamento per quella nota di genere che sa metterci dentro Isabel. Assolutamente, assolutamente sì. Damiano, in quante copie? Allora, sono 64 le copie in tutta Italia, usciamo comunque in cinema molto importanti, stando su Roma ne dico alcuni, siamo al King, all'Eden e al Farnese, ci sono un altro paio di cinema che onestamente stiamo chiudendo ora, ma insomma saremo ben distribuiti nelle città principali e anche in provincia. Benissimo, ricordiamo La casa dei libri di Isabel Coixet, in uscita in sala il prossimo 27 settembre. Un saluto e un ringraziamento a Damiano Ricci di BIM Distribuzione, che lo distribuisce insieme a Movies Inspired. E Damiano, un abbraccio e a presto. Un abbraccio anche a voi, un saluto e buon proseguimento. Ok. Non l'hai visto?